Oggi vi voglio raccontare il tema sulla famiglia, scritto da un ragazzino di 12 anni. Famiglia. Beh, è una parola grossa, eh? Che cos'è la famiglia? Al mio modo di vedere e di pensare, la famiglia è un insieme di due persone che si amano e che per forza di quest'amore fanno figli e mettono su una famiglia. Questo è per me il significato di famiglia. Diciamo che da qualche anno a questa parte esistono le cosiddette famiglie allargate, con due persone che prima si giurano l'amore e per questo fanno figli, poi per una semplice stupidaggine si lasciano e si divorziano, quindi incontrano altra gente, si sposano ancora e fanno altri figli, giusto per ritrovarsi con 10 mariti e 50 figli in giro per il mondo. No. Questa non è una famiglia. E poi due persone prima di divorziare non pensano come starebbero i propri figli? Io direi meno male che ci sono ancora dei genitori che si amano tanto e credo che prima di lasciarsi, come in tutti gli altri casi, per semplici stupidaggini, ci penserebbero come minimo 100 milioni di volte. Perché noi ragazzi, tanto grandi e tanto bambini, dobbiamo avere bisogno di due genitori. E non di vedere 5 giorni la mamma e solo nel fine settimana il papà, o raramente viceversa. Non esiste. Noi dobbiamo vedere e avere bisogno di tutti e due i genitori tutti i giorni della settimana e in tutti i momenti possibili. Ma io dico proprio che queste persone che si lasciano così per delle stupidate a noi non pensano e ci fanno soffrire tantissimo. Tanto l'importante per loro e stare bene con se stessi e con la nuova persona da amare. Loro pensano che noi stiamo bene perché ci vedono sorridere quando ci parlano dell'amore della loro vita, che non è naturalmente la persona che hanno amato tanto al punto da metterci al mondo. Essi non sanno che i nostri sono sorrisi assolutamente fasulli, ma a volte ci sentiamo costretti a sorridere quasi per fargli capire che noi siamo felici per loro, e invece no. Noi non siamo felici. Il papà o la mamma avranno anche fatto il gesto più brutto per portarsi a divorziare, ma a noi non hanno pensato. Loro non saranno più marito e moglie, ma si devono pur sempre ricordare che hanno dei figli che gli vogliono bene, forse con il divorzio un po' di meno, e che comunque devono sentirsi ricambiati dell'affetto che gli viene mostrato da noi. Ma non alla mamma e al suo nuovo fidanzato, nonché suo futuro marito, o al papà e alla sua nuova fidanzata, nonché sua futura moglie, ma alla mamma e al papà veri.